La zanzara è veramente, io credo in Dio, ma se dovessi trovare una falla nell'ordinamento è la zanzara, perché non ha un motivo di esistere. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. È perché vuole credibilità, vi crede, perché vi vuole bene, perché vi si affeziona a voi, perché non può sentire altre parti dove tutto è leccato, invece qui culo è culo, capito? Questo è. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Ragazzi, io inizierei da ieri sera, da quello che abbiamo sentito ieri sera, amico mio, eh? Abbiamo una signora, una ragazza di 26 anni che è diventata islamica, la figlia dell'onorevole Barbato, te lo ricordi? Sì, come no, ricordi? Come no, Italia dei Livori, certamente. Sono passate poche ore, dunque non hai completamente il cervello fuso. No, anche se ho davanti a me nello studio di Roma i messaggi che sono arrivati alla trasmissione di Barisoni e devo dire che gli SMS che sono arrivati sono altro che zanzara. C'è uno che scrive: chi cazzo ha certificato queste azioni? E poi bestemmia: saluti Roberto. C'è uno che scrivono del linguaggio delle cose pazzesche. Ma vai a fare in culo Barisoni. No, poi c'è scritto: grande Barisoni, ti vogliamo così a cazzo rittissimo. Cioè, messaggi. Adesso no, ma io non voglio essere volgare, ti assicuro. Ma siccome è Sebastiano, bravo, ti vogliamo così, tosto incazzato. Ciao da Riccardo da Roma. È scritto così: ciao da Riccardo da Roma. Il 335, adesso si può leggere il numero, no, in diretta. No, di no, non si può leggere, non si ma può sì, leggiamolo, chi se ne frega. Grandissimo Barisoni, tosto, figo, duro, duro che duri. Cioè, capisci che mi è aperto qua davanti, non sto dicendo sì, una cazzata. Sì, però devi capire che dalle 18 alle 18.30, mentre sì, ci si avvicina la zanzara, sì, no, ma c'è un effetto trascinamento, come dire, no? No, ma infatti è sconfortante quasi, devo dire. Uno si immagina, no? Perché è sconfortante? L'ascoltatore non ho capito, di Barisoni, un grande intellettuale, un economista. Ma quale intellettuale? E invece c'è ma il quando? Degrado anche qua. Ma quale degrado? C'è il degrado più assoluto. Vabbè, ragazzi, vabbè, Manuela Barbato Aisha. Sì. Aisha, 26 anni, diventata islamica a 22 anni. Non ce ne frega niente adesso di discutere dell'Islam. No. Io vi vorrei solamente ricordare questa cosa. Abbiamo chiesto sommessamente ieri sera a questa ragazza, per me follemente diventata islamica a 22 anni, ma come mai? Che cosa ti ha attratto? Che cosa è successo? La sai la risposta qual è stata? La sai la risposta la qual sai, è stata? C'era. No, ma te la ricordi la risposta? Perché io me l'ero quasi dimenticata, poi l'ho risentita oggi, c'è stata una risata generale durata un'oretta e mezza. Cioè, la redazione si è fermata, si è nessuno fermato. Ha più lavorato per un'ora e mezza. Pensavo per la visita di Obama no, a Hiroshima, sentendo, invece. Sentendo questa frase. Sentiamo. Manuela Barbato, Manuela Aisha Barbato, diventata islamica, che ci spiega come mai è diventata islamica. Vedevo su YouTube parecchi diciamo, animali che portavano il nome di diciamo, in arabo di Dio, quindi allora? Erano tutte queste specie di segnali che avevo avuto. Non ho capito, i segnali che hai avuto, che erano animali che portavano il nome di Dio? Sì, pure in qualsiasi cosa, l'anguria, la frutta, in qualsiasi cosa era non il nome di Dio. Bene, ma... Questa storia dell'anguria, della frutta, non ho capito bene, spiegami. No, perché su YouTube mi intrigavano queste cose. Ma cosa ti intrigava? Non capisco, i nomi degli animali, l'anguria, non ho capito bene. Sì, sull'anguria c'era il nome in arabo di Allah, c'era il nome Allah sull'anguria, su tutto quello che... si vedeva. Sì, e allora? E quindi, diciamo, mi sono creduto che questa era la vera religione. La vera religione. In nome di Allah sull'anguria. Sì, effettivamente. In nome di Allah sull'anguria. Ragazzi, io non ce la posso fare. Cioè, uno ti spiega perché è diventato islamico, che cazzo ne so, perché mi sono convertita, perché mio marito, perché la religione islamica è la cosa più bella del mondo. Ho visto in nome di Allah su un'anguria. Ma dai, su, dai. Per non parlare di quello che ci ha detto dopo, che la minigonna provoca gli stupratori. Cioè, lei è tutta, no, tutta coperta, col velo, ogni tanto il burka in India o dove cazzo va, la minigonna provoca gli stupratori. Ma le donne di oggi che vanno, una che va con la minigonna, secondo te com'è? Non, per me non è buono. Non è buono. Perciò si sentono sempre le violenze, diciamo, le donne che vengono violentate. Cioè, dice colpa anche del fatto che si vestono. Sì, sì. Sì, sì, cioè fanno, sì. Fanno vedere un po' troppo, diciamo. Le cose a me, da quando io esco, io, anzi, gli uomini non si permettono, mi rispettano. Cioè, te credo, non te vedono. Non si permettono proprio anche di fiorarmi. Te credo, amica mia, che non ti permettono. Con chi stai parlando? Non ho capito. Cioè, la gente ti chiama e tu durante un audio te ne sbatti i coglioni e parli con le persone al telefono. Hai fatto sentire una persona in radio. Ma non rispondere, no. Ma che? Sono in radio, non richiami. Ma che? Ma senti quello che succede, ma no? Ma com'era? Ma hai sentito in onda? No. Dai, su, ho messo dai. Il muto. Ho messo dai, il muto. Dai, su, dai, forza. Berlusconi alla Rai continua a dire, cioè è andato il giorno prima Porta a Porta. Poi dicendo che la Rai, Berlusconi, Renzi occupa la Rai. Il giorno dopo sempre Rai, Porro, ultima puntata, virus, Renzi occupa la Rai. C'è qualcosa che non torna però, Matteo Renzi, che è al governo senza essere stato eletto nemmeno al Parlamento e che, essendo al governo, ha manifestato una bulimia di potere per cui occupa militarmente tutto l'occupabile. L'ultima cosa che ha occupato è, qua dove siamo, la Rai. Nella pubblicità sono successe cose turche. La Rai ha... No, lei che fa? Che parla di Rai? Presidente. Sì, devo. Siamo in Rai, lei ancora per l'ultima sera. No, vabbè. E quindi... Allora, a proposito della vicenda incredibile di quella professionista cacciata... perché per cercare un disabile o un nano per un casting ha scritto cerco nano o persona affetta da disabilità disabile che faccia tenerezza, cacciata perché non si scrivono certe cose, addirittura con una regista, l'Archibugi, che si è vergognata delle cose che sono state scritte. Un tizio che è sulla sedia a rotelle e si chiama Umberto Guidoni, leggo da qualche parte, che gioca in una squadra di hockey in carrozzina a Parma, dice una cosa perfetta: se avessero cercato una bionda con due tette enormi e fare ammiccante, nessuno avrebbe detto niente. Certo. Eppure non tutte le donne sono fatte così, ma in quel caso evidentemente avevano bisogno di una bionda con le tette. Bravo. Per me l'uguaglianza è uguaglianza. Dire a un disabile: sai fare questo? Bene, ti assumo. Sei un disabile? Hai la faccia tenera? Ci servi per questo casting. Basta rotture di coglioni, basta ipocrisie. Allora, la questione di Salvini e del grande raccordo anulare. Ieri non abbiamo parlato, ne parliamo oggi. La signora Meloni ci ha accusato di aver stravolto tutte le dichiarazioni di Salvini, cioè, eccetera, Meloni. Eccetera. Cioè, Meloni, sì. Cioè, Meloni. Dice addirittura, poi faremo ascoltare più avanti, che dietro le cose che abbiamo detto noi, che abbiamo lanciato attraverso la GZ, ci sarebbe un disegno per farla perdere. Sì, questo è vero, questo è chiaro. Abbiamo fatto questo un disegno costruito a tavolino. Assolutamente, per fare perdere la Meloni. Di cui, francamente, delle cui sorti come sindaco di Roma, come aspirante sindaco, non non ce ne frega nulla, ma anche degli altri non ce ne frega niente, eh. Cioè, siamo osservatori. Abbiamo fatto una domanda a Salvini perché lui 2 anni fa scrisse, qualche anno fa scrisse su Facebook che il grande raccordo anulare va pagato. Era una vecchia battaglia leghista questa qua. Aveva fatto anche l'esempio di alcune strade del nord, peraltro. Sì, ma che è una vecchia pagano. Battaglia leghista. Salvini ci ha detto, di fronte a questa domanda, ci ha detto: no, non mi mettete nei guai con la Meloni. Quello l'ho scritto una volta. Sì, sì, sì. Ma allora sto gra va pagato o non va pagato? E lui ha detto va fatto come in Svizzera, dove si paga un bollino di 40 euro per tutto l'anno. E poi sì, tutto l'anno, certo. E dunque gira. Uno può circolare, certo. Vale anche per le circonvallazioni. Cioè lui ha detto o sono gratis per tutti le circonvallazioni al nord, al sud e al centro, oppure si pagano tutte. Ergo il gra va pagato. Poi ha una domanda precisa: il gra va pagato? No, ho detto io non voglio far pagare, addirittura sono i romani che dovrebbero pagare. Una cosa ridicola, perché naturalmente dovrebbero essere pagati i romani, non i romani a pagare, perché ovviamente sul gra si va sempre in fila e dunque dovrebbero essere risarciti i romani. Per quanto mi riguarda, frequentandolo anche per lavoro tutte le settimane, il grande raccordo anulare dovrebbero essere pagati i romani e gli italiani che stanno in coda per ore e ore a Roma, come sulle tangenziali milanesi, che per le autostrade, quindi non per le tangenziali, il modello è quello svizzero, quindi via i caselli e avere una targhetta pagando la quale tu circoli tutto l'anno. Ma al di là di questa cosa qui, su cui la Lega ci ha ripensato, perché adesso chiaramente è un'altra stagione politica, eccetera, eccetera, ma ognuno è libero di dire quello che vuole. Qui non c'è nessun interesse a far perdere la Meloni. Semplicemente non ce ne frega nulla. E non abbiamo stravolto niente. Abbiamo semplicemente detto, lui nella nostra intervista ha parlato anche di circonvallazioni, adesso nega e dice di no, Salvini, ma ci sta naturalmente, magari lo sentiamo, che bisogna applicare il modello svizzero. E siccome in Svizzera si paga, siccome in Svizzera si paga, ergo anche, anche il gra va pagato. Io e la mia ragazza ormai, lei in Italia, io in Lituania, quando ci salutiamo non ci diciamo più quelle stronzate come mi manchi, ti amo, buonanotte amore, ma ci diciamo soltanto traffico. La Zanzara. Ma siete due somari, andate a casa, andate a lavorare, barboni! Allora ragazzi, io voglio ogni tanto mollare questo discorso che riguarda i vegani, però spuntano spesso cose nuove, notizie nuove, eccetera, eccetera. Devi sapere che io vado sempre a mangiare in un ristorante a Milano, no? Adesso è inutile fare pubblicità. In questo ristorante ero sabato scorso insieme a mia figlia. Ora sì, di pranzo. Ma sei cliente fisso, paghi poco, quindi. Ma sì, anche, ma non c'entra niente. Che c'entra? No, questa è una delle ma non c'entra un comunque, cazzo, dai, su. Abbiamo intanto diffamato un po'. Ma perché devi diffamare? Sì, non ho capito, non c'entra avanti. Nulla. Lo sanno tutti, lo sa anche tu. Allora, comunque, che succede? Accanto a me, ovviamente, ci sono delle altre persone, non è che c'ho il tavolo regale, c'ho un tavolo normale insieme ad altra gente. Boh, leggo qualche giorno dopo, anzi, mi segnalano che cosa? Che una tale che si chiama Daria. Ricordatevi bene questo nome, Daria Genoese, non Genovese, Genoese, scrive su Facebook. Comunque, volevo dire che il tizio, non dico il nome perché per me è niente, che va in radio con conigli morti, agnelli da sgozzare, eccetera, eccetera, il paladino di tutti i carnivori, oggi seduto purtroppo al tavolo accanto, ha ordinato il piatto vegan. Cioè, hanno sentito pure che cosa ordinavo, capito? Lo ha gustato e ha fatto pure la scarpetta. Tutto vero, eh? La consueta coerenza. Forse lo avrà condito con l'olio bio scesogli dai capelli unti. Ma non è male. No, ma è tutto vero. È tutto vero. Cioè, nel senso, non l'ho condito non con l'olio. Ecco, i capelli può darsi che fossero unti, ma che cazzo vuoi? Sono cazzi miei. Che so, il tuo uomo, non ho capito che sono. Il tuo fidanzato, che sono. Il tuo parente. Ero a pranzo con te. Vado a pranzo come cazzo mi pare, anche con i capelli unti. Spesso sono con i capelli unti. Sono cazzi miei. Primo. Secondo, questa Daria Genoese, che poi pubblica la mia foto. Sì. La mia foto insieme al menù. Vabbè, ha scoperto la grande, no, assolutamente, ha scoperto la grande incoerenza. In realtà è la cosa più coerente del mondo, perché io posso mangiare tranquillamente l'uno e l'altro. Sì, non mi pare uno scoop epocale. Posso mangiare tranquillamente, come faccio spesso, un piatto vegano ecco, verdure, riso, piatto vegano. Poi gente che prima si mangiavano verdure e riso, non è che uno diceva il piatto vegano, verdure e riso, punto, no? Adesso c'è questa cosa, ma che è il piatto, ma verdure vegano e riso, ma che roba è, mica è cibo quello. Ma quello lo mangi te, i tuoi cani lo mangiano. È esattamente il contrario, è il principio della grande tolleranza. Io posso mangiare un piatto vegano, posso mangiare la tartare, posso mangiare qualsiasi cosa. Siete voi che non potete mangiare un cazzo. Siete voi limitati che pensate di mangiare i cadaveri. E dunque non potete mangiare una tartare, cosa che ho mangiato ieri sera, buonissima, tutta condita. No, una tartare condita, ottima. Una tartare condita. Non potete mangiare la fiorentina, eccetera, eccetera. Affari vostri, non vi critico. Ma se io mangio l'uno e l'altro, sono cazzi miei. Qual è l'incoerenza? Imbecille. Proprio un imbecille. Poi mi sembra pure di riconoscere questa qua, questa Daria, una cretina totale. Vabbè, adesso poverina, totale, suo totale parere, cretina. Parere, ma parere da che? Così, perché è una cretina totale. Ma è un'ascoltatrice, perché? Ma qua è ascoltatrice, una deficiente. Modo? Ma qua, ma è una. Non dico il nome perché per me è niente. Sì. Chi cazzo sei tu, Daria Genoese? Ma chi cazzo è questa deficiente? Ah, Dio mio, mi tocca combattere pure con questi imbecilli. Dai, Marco d'Alessandria, vai. Sì, pronto, ciao. Buonasera, dai. Parenzo. Buonasera, Gianni. Buonasera, Marco tornare... d'Alessandria. Buonasera. Dimmi, dimmi, caro, dimmi. Volevo parlare, tornare all'argomento del bagarinaggio. Ieri ne avete parlato. Il bagarinaggio, sì, non è un argomento di grande importanza. Stavamo parlando dei prezzi della finale di Champions League. Sommessamente ricordo che oggi Obama ha visitato Hiroshima, visita storica. Ma non ce ne frega un cazzo di Hiroshima. È molto più importante sapere quanto costa andare a vedere la finale di Champions League domani a Milano. Segnalavo solo così un po' sonno. Vabbè, Marco, dimmi, che c'è? Insomma, ieri poi ti sei fatto una domanda, se alla Scala succedeva la stessa cosa. Io ho passato per un anno esattamente questo, compravo i biglietti, poi li bagarinavo la sera alla Scala. Beh, siamo al top, qui tu praticamente che facevi, compravi i biglietti e poi li rivendevi davanti alla Scala. Sì, ma io ho un carissimo amico, che è uno dei più grandi bagarini italiani, il quale faceva esattamente la stessa cosa. Bella gente, ma anche con la Scala, con qualsiasi cosa. Ha iniziato al Metropolitan di New York. Ma è un reato, ragazzi. Quale reato? Reato. Non è reato. Sì, sarà pure reato. Vabbè, vendere i biglietti di sotto. Vabbè, sì, rivendere i biglietti. Poco male. Vabbè, Marco, quanti soldi facevi per esempio con la Scala? Ma allora, io potevo comprare i pochi biglietti che si potevano prendere i giorni precedenti, perché sono contingentati, quindi facevo tipo 10 volte l'acquisto del biglietto, però i biglietti erano solo 2. Poi io per vedere l'opera il giorno stesso facevo la fila e andavo sul loggione. Ma la cosa forte è che c'erano quelli professionisti, che erano il Righetti, il Gianni con la sua cagnolina, famosi, famosissimi, che erano bagarini dello stadio, che durante le rappresentazioni, le più importanti alla Scala, venivano e facevano il lavoro lì. E loro avevano dei clienti fissi. Avevano tantissimi clienti a cui vendere. Questa era solo la mia testimonianza. Va bene, ciao ragazzi. Si possono fare un sacco di soldi con i biglietti. Cioè, Francesco da Napoli, vai. Buonasera. Dimmi. Volevo dire due cose, signor Cruciani. Dimmi. Prima, per quanto riguarda la toponomastica, io proporrei, per esempio, tutti i bagni pubblici, indestare la Bottaia, dal Miranda, tutte quelle che hanno fatto parte della Repubblica di Salò. Vabbè, d'accordo, lei vuole intestare tutti i bagni pubblici per sfregio, diciamo, no? Per sfregio. No, per sfregio, perché si ricorda che questa gentaglia cosa ha fatto quando era al potere. Vabbè, ma adesso non ce ne frega niente di ricordare queste io cose. Io non arrivo a tanto, ma può essere un'idea anche questa. E poi volevo dire una cosa, i compari di Cruciani, qui a Napoli, di sono Cruciani? Tutti con la no, per l'amor di Dio, di Parenzo. Tutti i compari di Parenzo appartenenti ad ALA, Associazione Le Stofante Autorizzate, sono tutti con il PD. Ma che ne so io di ALA? Ma che me ne frega me di ALA? No, sta dicendo che siccome il PD è alleato con ALA, lui sta dicendo che sono tutti camorristi. Beh, ma che mi interessa? Camorristi, bisogna anche provarlo che sono camorristi. Sì, tra l'altro, qua, ma insomma, comunque. È chiaro. Ha detto Le Stofante Autorizzate. Cioè, lei ha ribattezzato ALA, che ricordiamo per chi non lo sapesse, cioè il 99% delle persone che ascoltano, è l'organizzazione politica di Verdini. Lei l'ha soprannominato, lo ha ribattezzato Associazione Le Stofante Autorizzati. Associazione Le Stofante Autorizzati. Cioè, secondo lei il senatore Danna che voglio togliere la scorta a Saviano, grandissimo Le Stofante. È un grandissimo Le Stofante. Ma grande di prima. Io penso cioè, che un lei... delinquente praticamente. E basta vedere l'humus dove si muove, dove questo l'humus lo dice dove lei, si muove. Questo lo dice l'humus. Lei. L'humus. Fermi tutti. Ma cosa aspetti a dargli una venia sepoltura al gatto? Quel gatto che è in testa, che si vede lontano un chilometro, che è un gatto morto. Sono Marta. Cagnola e vi aspetto con il sabato del villaggio ogni sabato alle 15. Sono Daniele Bellasio, poi alle 17 arrivo anch'io e provo a rovinarti l'ultima ora del sabato del villaggio con Radio Tube. I liberi consigli per il fine settimana e tutto il meglio e il peggio della rete tutti i sabati alle 15 su Radio 24. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, container, con Massimo De Donato. Il segnale orario vi è offerto da... Cordialissima e amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. La Zanzara. Ho capito perché c'è il dente giallo, Giuseppe. È perché lecchi il culo sempre a Mughini, a Salvini. E a forza di leccare il culo, sporco di merda, e c'è il dente giallo, amico mio. Rassegnati, neanche il dentista lecca il culo di Mughini. Lecca il culo di Mughini, ma dai, ma vaffanculo. Grande Parenzo! Nella ormai annosa questione Rom versus gente comune, non ho ancora sentito alcuno che pronunciasse la parola napalm, perché secondo me quella è la soluzione, il napalm, il signor napalm, e con i Rom abbiamo chiuso. Parenzo non conosce Salieri. Parenzo, ma che infanzia triste hai avuto? Non conosci scene del tipo e mo metto si scarilla mucca e va a dirigere lo traffico. Parenzo, Parenzo. Beh, certamente è grave che non conosci il grande regista Salieri, David, eh? È molto ripeto, grave. Ti ripeto, di Salieri conosco... no, questo è veramente molto molto grave che non conosci Salieri. Salieri, io conosco Salieri, no, certo, il musicista Salieri. Uno dei più grandi registi porno della storia italiana. È un grandissimo musicista, dai, Salieri, su, è stato. Ma come si fa a non conoscere Salieri? Nel rapporto con Mozart, poi sai, no? Salieri, Mozart. Ma veramente è incredibile che tu non conosca Salieri. Lo sai che mi sorprendo di questa cosa qua. Ma conosco Salieri. Cioè mi sorprendo per il fatto che tu non conosci il grande Salieri. E che il grande Salieri per me è Salieri, Mozart e quella cosa lì, poi il resto non conosco, non lo so. Allora, Lori del Santo, a proposito di donne che offrono il proprio corpo, o donne che offrono il proprio corpo, dice una sacrosanta verità e non si nasconde: mai dispiaciuto essere donna oggetto, la bellezza è la mia carta di credito. La signora Lori del Santo. A me non è mai dispiaciuto essere trattata come la donna oggetto, sapevo che la mia bellezza era la mia carta di credito, di presentazione. Utilizzare la bellezza come carta di credito, una cosa meravigliosa, una cosa direi molto occidentale. Cioè, dove le donne utilizzano la carta il proprio corpo come carta di credito, siamo sicuramente in presenza di una società evoluta, senza dubbio su questa cosa qua, non ho alcun dubbio. Cioè, dove le donne utilizzano, naturalmente se vogliono, il proprio corpo come carta di credito, come mezzo di accesso a vari mestieri, a vari mestieri, siamo in presenza sicuramente di una società evoluta, non c'è dubbio. Ottavio da Roma, vai Ottavio. Sì, buonasera a tutti, dimmi, gli dimmi. Ascoltatori, io dimmi, volevo fare un intervento riallacciandomi a qualche tempo fa, quando argomentavi sul fatto che noi cittadini alla fine un po' costretti ci armiamo per difenderci. Sì, sì. Perché in realtà quando ne parlavi non... Sì, capivo, ma poi quando la vivi è un altro discorso. Ora, per fortuna, non sono entrate in casa, ma noi abbiamo un'azienda che facciamo, diciamo, vending presso clienti, in questo caso una struttura sportiva, sì, dove da settembre, diciamo, abbiamo subito una serie innumerevoli di furti. Quanti furti, scusa? 29. Ah, ma in che, dove avvenivano questi furti? Nei distributori automatici o dentro i capannoni? No, praticamente diciamo che è una struttura che rappresenta un po' il basket qui a Roma. Ma avete loro, subito 29, diciamo, furti, e dunque? Allora, il discorso è questo, che noi ovviamente, ti dico solo, il primo indennizzo dell'assicurazione è stato di più di 10.000 euro, per farti capire. Vabbè, scusa, però a me che me ne frega adesso dell'indennizzo dell'assicurazione, perché ci stai chiamando? Non ho capito. Il danno che abbiamo subito, ecco, per questo, perché dopo 29 volte, e dopo che ci siamo attrezzati, antifurti, carabinieri, devo dire, veramente da encomio, è stato arrestato la 29ª volta, questo alle 4, alle 10 già stava fuori. E vabbè, e noi stanotte abbiamo avuto un altro tentativo. E dunque, di che allora fai? Dico, che fai? Ti armi? Allora, ti armi? Ti vuoi armare? Sarebbe, non lo so. C'è un'altra alternativa? Non so. Ma non lo so, dimmelo tu. Cioè, siamo, lo vuoi prendere? Mi sembra di no. Sì, vuoi prendere il porto d'armi? Sì o no? Vuoi prendere il porto d'armi? Sì o no? Ma sarei tentato, sinceramente, perché altrimenti ci fa fallire. Cioè, no, ma Ottavio, hai tutto il mio appoggio, la mia solidarietà. Cioè, sì, ci vogliono appoggio, più armi circolanti in Italia. Tuo appoggio, ci frega? Vogliono più armi circolanti in Italia, matto, per autodifesa. Trump, sei il Trump italiano. Assolutamente sì. Cioè, nel senso che sono assolutamente a favore di più armi. Anche gli Stati Uniti stanno tornando indietro. Veramente non mi sembra, non risulta. Sì, non risulta. Obama, sì, però negli certo. Stati Uniti io credo che la galera te la fai. Il problema è che qua ti arrestano alle 4, alle 9 stai fuori. Anche i carabinieri, io mi metto nei loro panni. Ma alla fine, ma chi glielo fa fare? Hanno dormito anche dentro la struttura. Cioè, voglio dire, si sono fatti una notte là dentro che non è andata a buon fine, poi riesce a prenderlo e alla fine, voglio dire, mi metto anche nei panni delle nostre forze dell'ordine, ma alla fine io direi, ma chi me lo fa fare? Va bene, ciao, Geremia Ascoli, vai. Geremia? Geremia da Ascoli. Sì, sono qui. Dimmi, Geremia, dimmi, con calma, con grande calma, dimmi. No, io sono calmo. Senti. A questa ragazza, no? Quale ragazza? Io sono cristiano. Sei cristiano? Che cazzo vuol dire sei cristiano? Quella ragazza lì, la Barbara, come si chiama? Quella ragazza cicciottona. Quale? Quella che segna 22 anni, che si è innamorata dell'Islam. Sì, la figlia di Barbato, allora? Sì. Brava, ma quanto è grossa? Ma non lo so quanto è grossa. Ma chi è sto ubriaco? Allora dovevi chiedergli quanto è grande. Cioè non le ho chiesto, tu dici che non le ho chiesto quanto è grassa? Se è grassa. Quanto è grassa, perché... Ma che c'entra quanto è grassa? È perché tutte le donne grasse, brutte, le prendono loro e diventano... Questa è una teoria interessante. Geremia D'Ascoli sostiene che... Se non sbaglio. Geremia D'Ascoli. È la verità. Docente di storia delle religioni. Perché la verità? Tu dici che le ragazze italiane, quelle brutte, quelle grosse, o comunque non è che necessariamente una grossa è brutta, ma comunque diciamo che... Che non trovano un bel pisello italiano. No, è un bel ragazzo italiano adesso, diciamo. Non un bel pisello italiano. Non trovano un ragazzo italiano. Fine intellettuale. Grosse, allora diventano islamiche. Ragazzo mio, però ragazzo, hai la tua età, se tutte le ragazze che diciamo bruttine che non trovano un ragazzo dovessero diventare islamiche, diciamo che saremo praticamente alla conversione quasi totale, direi, no? Saremo adesso stavi parlando con quell'altro signore, io ti stavo ascoltando. Sì, signore, siamo Parenzo, sì. Sempre, tutti i giorni. Sì. Io ti ascolto tutti i giorni. Bene, allora Geremia, da quando parti fino alla fine. Sì. Allora, tu stai dicendo, questi non li mandiamo a casa loro, tutti sì, quanti. Questi tutti chi? Gli islamici, dici? Islamici, zingari, tutti sti figli di puttana. Sì. Hai capito? Sì, hai capito. Noi qui fra 10 anni sì, non siamo più italiani. Non siamo questi più italiani. Fanno sì, 20 figli, gli danno, io l'esempio ad Ascoli, casa, sì, soldi, sì, non sì, pagano né affitti, né luce, ville, niente. E gli niente, italiani... Arriva Equitalia, arriva Giovanni, ti arrestano senza aver commesso il fatto, perché siete tutti comunisti, questo tutti. Berlusconi c'ha un solo modo, io non sono per Berlusconi perché io sono Casa Pound, sono fascista. Eccone un altro. Capisci? Fascista vero, io sono un fascista. Se tutti, beh, questo era, se il si paese era un po' intuito, fosse, diciamo, tutti quelli che chiamano, sì, se il sì, paese no, fosse, tutti sarebbe da scappare via, frocio, perché sembra un paese dei fascisti. Questo frocio è sposato pure lui con una... con chi? Una con chi? Di quelle, perché no, chi, se no chi cazzo se lo sposava sto nano? Ma chi? Sto nano, chi se lo sposava? Un tizio di Casa Pound, lei è iscritto a Casa Pound? Io sono il una casa matta. Di Casa Pound, il numero uno. Il numero uno di dove? Il di Casa Pound, di casa sua forse, allora, non di Casa Pound. Noi non facciamo del male a nessuno, noi vogliamo. No, ma la con noi chi? Ma noi chi? Italiani. Ma noi chi? I soldi agli italiani che hanno fame, vivono dentro le baracche. Delira. Allora gli italiani vivono in mezzo ai topi. Va bene, d'accordo. Senza mangiare. I nostri vecchi non hanno i soldi per spendere. Delira, delira. E questi gli dobbiamo dare 150 euro al giorno solo di sussidi. No, non sussidi. Chi ha detto mai 150? Dove ci guadagnano le cooperative rosse? Sì, ma Geremia, miliardi. Non ho capito. Va bene, miliardi, d'accordo. Io sono miliardi un imprenditore, caro no, amico mio. No, imprenditore questi no, questo non si può sentire, guarda. Questi non pagano no. un cazzo. Imprenditore sono tutti non commercianti. Credo. Imprenditore di stronzate, tu. Probabilmente. Sì, quello sicuramente. Le stronzate le fai tu. È un imprenditore di stronzate, su questo non c'è mai dubbio. Tu sei un mangiapanazza di vento, non hai mai lavorato. Mai, mai, questo tu è sicuro. Tu devi andare a lavorare. Va bene, Geremia, però tu sei il capo di Casa Pound, ma avrai un cognome, no? Magari è vero. Sto scherzando, io non sono capo di ma un appunto, cazzo. Ma appunto, io sto dicendo questo che si capisce sono il motivo. Uno che mi piace, la gente sì. seria, la gente che vuole sì. bene agli italiani. Sì. Bene, bene. E gli unici che vogliono bene agli italiani. Sì. Chi sono? Chi sono? Sono quelli di Casa Pound. Sì, sicuro. Va bene, sicuro, guarda. Perché vogliono che le case le danno agli italiani, gli italiani. Sì. I soldi si danno agli italiani. Sì, i soldi gli si danno stranieri agli... devono andare a casa. Gli ospedali anche si danno agli italiani, come questo nel caso. Pezzo di merda lì. Quando no, eravamo in guerra, quando eravamo in guerra. Sì, in ma guerra. Che è successo 50 anni fa? Guerra anche? 60. Non andavano di là. Sì. Stavano a nascondersi. Chi non di andava di là? Montagne. Chi è che non andava di là? O di là o di questi qua, non ho capito. Di qua, che chi vengono a fare? Chi di viene qua di qua? Di, ah, di qua, no, noi adesso. Noi li possiamo ospitare due mesi, tre mesi, poi devono tornare a casa loro. Ma chi è che va come di là? In tutte le sit- chi è che va di là? Noi parliamo di tutti, gli arabi, i ah, neri, ma è di qua chi viene la... invece? Di qua chi viene? Di qua vengono tutti qua, e di là? Coglioni, e no? Di là chi va? Ma se adesso ti porto Ascoli, no? Non sì, cammini ma... più, stanno tutti là non ho... ai supermercati. Vabbè. Se gli dai un euro si incassano. Ma chi è che va di là? Non ho capito chi va di là. Niente, il suo neurone passa da una parte all'altra del cervello senza fermarsi tu, e trovare pace. C'è lì a fianco che parla un po'. Quello deve andarsene a casa sua, di dove è lui? Io sono di Padova, però. Quello non è italiano. No, ma italiani sono italiani. Prova, ma perché lui che è? Tu un attimo. Ma lui che è? Spiegaglielo perché. Che cos'è questo? Perché questo ma è italiano, è nato a Padova. Testata, questo qua. È nato a Padova, ma mo ci hanno le terre, gliel'hanno date che se ne tornasse a casa sua. Ma no? Quali terre? A casa sua è Dio per tutti. Ma quali ma che terre? Mandato? Quali terre hanno dato? Adesso c'ha le terre. Non, ma quali non terre? Terre? Stupido! Stupido sei! Stupido! Stupido! Stupido! Stupido! Sei uno stupido! Un fermo, poveretto! Fermo. Malato di mente! Stupido! Fermo. Stupido! Chi è? Chi è? Ah, Cruciani! Tesoro mio, quanto sei bello! JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aruba Soluzioni Cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. La Zanzara. Oggi all'autolavaggio avevo davanti un rom, avrà avuto 23-24 anni, aveva una BMW X6 M3, 4.000 di cilindrata, una macchina che costa facilmente oltre le 100.000 euro. Mi chiedo, ma come cazzo fa ad avere una macchina così, un rom di 25 anni? Io ho 50 anni, conosco tre lingue, sono un manager e ho una Y10 bianca. Allora, voglio riassumere la questione Salvini grande raccordo anulare, perché non mi va sì. di passare come quello che manda in giro delle robe farlocche. Salvini ha detto esattamente questo di fronte alla nostra domanda. Lui aveva scritto un post su Facebook qualche anno fa. in cui diceva il GRA va pagato, vecchia battaglia della Lega, il grande raccordo anulare che va pagato. Oggi naturalmente non conviene dirlo, ma questo lo capisco, la politica è fatta anche di contraddizioni, lo sappiamo come è fatta la politica, dai. Allora, Salvini dice, perché mi vuoi fare litigare con la Meloni? Il GRA a Roma va pagato, sì o no? Non è che uno... Allora, ma perché mi vuoi far danneggiare la Giorgia Meloni? Ma no, ma l'hai scritto su Facebook, l'hai scritto che va pagato, adesso ti tiri indietro. Su. Quanti anni fa? Il sistema hai detto che... italiano... Io ma chi se ne frega? A Roma? A Roma, sto dicendo a Roma? È una domanda. E io ti sto chiedendo del GRA a Roma, si paga o no? Al monopolio delle autostrade usano male e lo farei pagare ovunque, da nord a sud... La targhetta, come c'è in Svizzera. Vabbè, è quello, in generale è così. 40 euro e giri dove vuoi, quando vuoi, come vuoi, punto. Poi dice, grande raccordo anulare, non va a pagamento, non va a pagamento, ma non voglio far pagare nemmeno i lombardi. Tutte le tangenziali o a pagamento o gratis. Siccome sono a pagamento le altre, è evidente che deve essere a pagamento pure GRA. In questo momento se restano a pagamento le altre, no? Io vorrei le tangenziali a pagamento come in Svizzera dappertutto o gratis dappertutto. Vabbè, dai, ma che c'è ancora da Ascoli là, Geremia, il fascista là? Sì, sono qui, sono c'è qui. Che Geremia, che devi aggiungere oltre alle follie che devi? Dimmi, volevo aggiungere una cosa sola, che noi avevamo questo piccolo paese, Marche Abruzzo, no? Sono Marche Abruzzo, sì, che succede? C'era il lavoro. Avevamo il lavoro tutte le persone, tutto, le aziende, piccole, tutti il lavoro, sì, 30, sì. Si stava meglio quando si stava peggio, dici. Oh, sono arrivati questi signori immigrati, un grande, non parlare mai, è l'unico che si è messo contro ste merde, merde quali sarebbero? C'hanno miliardi, c'hanno ville, case, palazzi, droga, rock and roll, e nessuno gli rompe i coglioni. Rock and roll non hai credo. Capito come funziona qua? Rock, pure rock and roll devono andare tutti a casa loro, a casa, ma quasi ognuno. Allora, scusa, però, il signore ha fatto la torre di Babele, ci ha diviso per mondi e per nazioni, anche un biblista, no? Questo qui anche un biblista ci ha diviso, sì, vabbè, ma allora dopo questo Parenzo di merda, ma come fai a tenerlo lì? Come fai? Questo mica, questo qui, come fai? Come fanno a dargli lo stipendio a un cretino? Un anti-italiano. No, tu te ne devi andare da dove cazzo sei venuto? È venuto da Padova, l'acqua del bagno, eh? È l'ora di tirare l'acqua del bagno. È venuto da Padova. È l'ora di tirare l'acqua del bagno. Da dove cazzo sei venuto? È l'ora di tirare lo sciacquone, così ti salutiamo. Arrivederci, tira lo sciacquone, tira lo sciacquone. Tiralo tu, dai. Ettore di Isernia, vai. Eccolo via. Vai, Ettore, dimmi. Sì, no, Giuseppe, io ti volevo dire niente, che volevo riprendere il discorso dei vegani, animalisti. Ah, dimmi quello che ti pare, dai, non ripeto, mi dice, volevo riprendere. Oggi è sempre la giornata storica della visita di Obama. Comunque. Vabbè, ma che dobbiamo dire della visita di Obama? Allora, no, no, per carità, va benissimo. La vicina porta i gatti a pisciare, ecco, i gatti a pisciare. La tua, al mio garage. La tua vicina? Obama, lo pulisce Obama il piscio. No, Obama è andato a Hiroshima. Ma non gli interessa a lui di Obama Hiroshima. Per carità, non gli interessa. Gli interessa andiamo la vicina. A parlare dei gatti che pisciano. Benissimo, non c'è problema. Ettore, vai, dimmi. Sì, certo, sì, perché li legittimate voi a questi ogni giorno. Ma chi legittimiamo? Ma i gatti Obama. Ma poveri animali, poveri animali. Ah, gli animali. Il rispetto per l'uomo, chi ce l'ha? Chi ce l'ha? Ma non ho capito qual è il punto. Io non ho capito qual è il problema. Ah, Ettore, perché dimmi. Quello Parenzo subito mi ha interrotto. No, vabbè, allora racconta la tua vicenda, il tuo travaglio. Qual è il tuo travaglio, Ettore? Travaglio. Il mio travaglio è che io ho una vicina di casa che ha sette gatti. Sette gatti, che puntualmente vengono a fare la pipì vicino al mio garage. Questi sono drammi, okay? Per lui è un dramma, scusami. No, ma non c'è dubbio, nella radio della Confindustria il tipo che il problema è questo, che c'hai una pulire tu, Parenzo, sì. Ma se allora questo qua è il problema di una vicina che piscia un enorme, i cui sette gatti pisciano davanti al garage. È un problema che è abnorme, incredibile, certo, veramente. Ma il problema sì. Ma scusa, procurami il numero. E qual è? Il problema l'ha visto alla radice, cioè? Perché io non mi posso permettere di dire niente alla signora, perché tutti i condomini dicono che gli animali vanno rispettati, gli animali, a me scusa, se io dico chi se ne frega sono un insensibile, se io oso dire chi se ne frega dei gatti. Richiamate Ettore un attimo, che questa cosa è molto importante, bisogna assolutamente chiamare la vicina, assolutamente chiamare la vicina. I Med da Napoli, i Med. Sì. credo sia islamico il signor Imed. Islamico è un testa di cazzo, mi stai a sentire? Che parlano velocemente. Non ho capito, diciamo. Chi è testa di cazzo? Sei integrato facilmente. Tu sei un testa di cazzo, Cruciani. Imed, sì. Dillo questo, perché dimostra volta... l'integrazione come è possibile. Però Imed, vedi? scusami, è l'integrazione è che è avvenuta, vedi? No, ma è chiaro. Però Imed, io voglio capire una cosa. Tu sei uno frequentatore della moschea di Napoli che sente la zanzara perché tempo no. fa... No, non sei frequentatore della moschea di Napoli. No. Ascolta, non ti permettere a parlare dell'Islam, una cosa che ignori. Prima di io tutto, posso parlare di quello che mi pare, non sei tu a dovermi dire. Non sei tu a dovermi dire come parlare dell'Islam. Sei un testa di cazzo ignorante, non ti permettere. Va bene, testa ignori. Di cazzo può essere, ignorante può essere, ma io parlo di quello che voglio, anche dell'Islam. E anche senza conoscere l'Islam come... Ma pretendi, come fai dico... a parlare di una cosa che ignori? Scemo, sì, d'accordo, però dimmi qual è il punto. Dimmi qual è il punto. Imed. Qual è il punto? Che tu stai intervistando una ragazza, non sa neanche dove sta di casa. Beh, non so di stare non sa casa. Parlare di Islam, non sa. Ma è bastato semplicemente chiedere com'era stata folgorata dall'Islam con il nome di Allah scritto sulle angurie, amico mio, per capire tutto, no? Sì, ma tu hai attaccato l'Islam, ma una cosa che ignori. Cerca ma non di ho non attaccato l'Islam, cosa... ma non ho attaccato nessuno in questo caso. Ho fatto un'intervista a una signora che era un po', diciamo, confusa, secondo una me. Una cosa che ignori, cerca di... Parli vabbè, di puttana, parli di... Per di, fortuna di, non sei sì. tu a dovermi dire di cosa parlare o cosa non parlare, chiaro? Non sono io, io ci posso dire. Scusa, ma perché le donne? Perché una cosa è un argomento che ignori. Vabbè, come d'accordo, perché parlare? Le donne non possono dare la mano all'uomo, per esempio? A me mi stupisce questa cosa. Perché la donna è pura per il suo marito. È una stronzata gigantesca. Beh, una stronzata gigantesca. Non è una stronzata, ce l'ha detto pure quella ieri sera. Che sì, non può dare la mano. Non mi sembra grave questa cosa qui. Non se mi sembra... voi pare, stavolta lo dico io. Se a voi pare normale che una donna oggi, una nel mondo occidentale, in Italia, non dà la mano all'uomo, perché, no, non è perché che lei non dà la mano all'uomo, sì, siccome non tocca, tradizione non deve essere islamica, toccata. Non deve la essere... donna può essere impura perché magari è considerata impura nei giorni in cui. Ma non è solo quello, ciclo. Non è solo quello. Perché non deve essere toccata. Perché, perché una donna non può dare la mano all'uomo? Non deve... mi stai a sentire, dimmi, non può essere toccata soltanto quando sta per andare a pregare. Sì. Cioè, a pregare lei non può toccare nessuno. Ma perché uno non può dare la mano? L'ha detto ieri sera la signora, pure Barbato ce l'ha detto. Perché? Stammi a sentire, cioè, soltanto perché quando c'è cioè, la donna o l'uomo qualsiasi sta per andare a pregare. Il momento di sta lui e Dio, ecco, la è questione di... Vabbè, ma che vuoi da me? Non ho capito. Questa qua... Non questa altro. Ha detto che la minigonna può provocare lo stupro. Cioè che è una cosa che non si deve fare, andare in giro... Sono argomenti che... Certe ma argomenti di che? Stai... Ma non ho capito, tu credi veramente che la donna debba andare in giro più bene? Ascoltami. Tu pensi, sono io che faccio le domande, tu pensi che le donne debbano andare in giro più vestite? Sono libere, si vestono come gli pare. Ma se una va in giro un po', diciamo, scoperta... può essere, come dire, può attrarre i violenti, gli stupratori? No, assolutamente no. Meno male. Ciao Imed, ciao. Davide, ieri ho letto una notizia incredibile. Milano, sì. Sesso con tredicenne adescata su Second Life. Pedofilo arrestato e il pastore di una comunità religiosa. Una vicenda terribile, tragica. Leggo ancora: tra i due una fitta rete di contatti durata 2 anni. L'uomo, un cittadino americano residente in Portogallo, 2 settimane fa è arrivato apposta in Italia con la moglie per sposare la vittima e poi l'ha violentata. Noi abbiamo al telefono il padre di questa ragazzina che si chiama Simone. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao Giuseppe, ciao a tutti. Ciao Simone, ci puoi raccontare... innanzitutto perché decidi di parlare? Ma io ho deciso di parlare più che altro per denunciare cosa è accaduto a mia figlia e per far sì, anche se è una goccia nel mare, che non accada più a nessun'altra ragazzina o bambina, perché sinceramente io non capisco come si possa a una certa età iscriversi su questi social network così senza problemi chattare con qualsiasi persona di qualsiasi genere di età. Ecco, questo non mi entra nella testa. Voi non avete mai sospettato di nulla di questa? Assolutamente no, perché mia figlia, bravissima a scuola, tutti voti altissimi, bravissima nello sport, non ha mai dato segno, mai. E a scuola come si comporta con i suoi, frequenta i suoi coetanei eccetera o no? Siamo venuti a sapere che tramite questo che l'ha adescata praticamente in questi anni qua, gli ha fatto una plagiata, un lavaggio del cervello, non so se si può dire così, praticamente gli diceva di non frequentare nessun coetaneo, di non frequentare nessuno perché se no rovinava la loro relazione, praticamente parlava di gelosia. Con chi vive tua figlia? Quanti anni ha? Mia figlia ha 13 anni e vive con la madre. Dunque voi siete separati? Noi siamo divorziati. Siete divorziati, vive con la madre. E in tutto questo tempo, cioè lei per 2 anni, cioè dagli 11 ai 13 anni, ha praticamente vissuto una vita parallela in Second Life, o sbaglio? Tramite l'ispettore capo che ha fatto l'indagine abbiamo scoperto che nostra figlia vive in una realtà virtuale, in Second Life, ma anche sui social. Praticamente ormai non ha scambiato il virtuale, la realtà col virtuale. Vive con la tua ex moglie? Bravo, sì. E com'è che lei non ha mai controllato questa seconda vita? Non è che non l'ha controllata, nel senso anche lei esce la mattina alle 8 per lavoro, torna la sera tardi e praticamente si è fidata, anche perché non ha mai dato segno, nel senso di squilibri, cose emotive, si è sempre comportata bene. Beh, non frequentava nessuno, hai detto. Ma lei è molto, come si chiama, chiusa. Molto chiusa di carattere, introversa, introversa. Però scusami se te lo dico in maniera così brutale, poi andiamo ai fatti, ma qualche responsabilità la tua ex moglie ce l'avrà pure in questa vicenda, o penso no? Penso di sì. Dagli 11 ai 13 anni lei praticamente entra in questa Second Life, in questa vita parallela, e che cosa, cosa si scrivono con questo signore? Praticamente questo qua l'ha pescata parlando di Dio, del Signore, di quello che Dio può fare, quello che non può fare. Praticamente diciamo che era diventata una figura paterna per lei, essendo che io lavoro, sono sempre in giro e non la vedo spesso, anche perché essendo divorziato ovviamente aveva preso il mio posto. Quanti contatti hanno avuto i due in questi 2 anni? Tantissimi, si parlano di circa 33.000. Cioè 33.000 scambi di mail? L'ispettore parla di contatti. Senti, e le cose poi come si sono evolute? Cioè, questo qua ha deciso di venire in Italia, da dove? Dal Portogallo, no? Abbiamo capito che ha deciso di venire in Italia perché virtualmente su Second Life si erano praticamente sposati. Dunque si sono sposati su Second Life e questo qua decide a un certo punto di venire in Italia? Sì, di venire in Italia per conoscere la sua sposa con la moglie di lui. Tua figlia sapeva che questo qua era un 64enne americano, un pastore religioso? Sì. Sapeva tutto? Sì. Come sta adesso sua figlia? Perché anche questo malissimo, nel senso non vuole più uscire di casa, ha paura. Ma ne avete parlato? Che cosa le ha raccontato? Beh, quello che vi sto raccontando, nel senso che praticamente lei si era fidata di questo personaggio, praticamente nel parlare è proprio straplagiata in tutto, cioè un'altra, esistono due bimbe nella stessa persona, la vera tredicenne e la bimba plagiata, che se la stiamo scoprendo nei giorni, praticamente come età molto più alta, capito? Una donna, anche come mentalità, come pensieri. E dunque questo signore decide di venire in Italia e che succede? Decide di venire in Italia a conoscerla e si sono incontrati. Questo giovedì scorso, no? Sì, giovedì scorso. E come sono avvenuti questi incontri? Sono venuti nell'appartamento di questo signore qua, di questo pastore, che aveva preso in affitto qui a Milano. Sto maiale, chiamiamolo maiale perché sennò altrimenti qui... Parenzo, sai come lo chiamo io? Perché io sono molto generico, lo chiamo un orco. È proprio come vengono chiamati. Ma adesso passiamo a lui. Però raccontami cosa è successo in quelle ore nell'appartamento dell'orco, nell'appartamento del pedofilo. Secondo il racconto di mia figlia, praticamente si sono trovati nel tardo pomeriggio per conoscersi, tra virgolette, per cenare, e lui l'ha baciata davanti alla moglie. Ma com'è che lei a 13 anni va a casa di uno di sera, scusami? C'era nel pomeriggio. Lei nel pomeriggio finiva la scuola, andava a casa dei nonni a mangiare, poi abitando praticamente quasi a fianco... Andava da sola a casa? Andava lì, sì, perché ci hanno sempre fidato, perché si è sempre comportata benissimo. Lei è uscita con la scusa che andava a trovare un'amichetta di scuola. È andata a casa di questi qua, presa in affitto, immagino, da questo signore, con la moglie, si sono baciati, e la violenza sessuale quando si è consumata? sabato. E cosa è successo concretamente? Allora, sono usciti, ha detto che sono andati a Milano per fare lei fa, diceva che faceva la cicerone, li ha portati a Milano in Piazza dell'Uomo, sì. La moglie si è allontanata, sì. e praticamente lui con la scusa l'ha portata nel garage dell'appartamento e l'ha violentata. Violentata in che senso? Scusami se te lo chiedo in maniera così cruda. Posso dire, nel senso, sì, non c'è stato penetrazione, ma rapporto orale e qualcos'altro. Comunque una violenza. Beh, certo, non c'è dubbio che sia una violenza. E tu, questa persona, se ce l'avessi davanti, cosa faresti? Ammazzo. Cioè, non mi interessa. Una persona di genere non merita di vivere, anche perché sono grosso, fido. Ma è la moglie di questo orco? Che fine ha fatto la moglie di questo orco? Che sapeva tutto. Allora, è complice o no? È al vaglio degli ispettori, è indagata, è piede libero, ovviamente è stata fotosegnalata e tutto quanto, è stato levato l'espatrio. Io voglio capire una cosa però, leggo da qualche parte che in queste chat su Second Life questo 64enne parla di Dio, anche di sesso sadomaso, cioè tua figlia così piccola, per carità una figlia piccola, è stata plagiata anche da questo punto di vista? Pendeva dalle sue labbra, da come cioè lei pendeva totalmente dalle sue labbra, certo. Sì, era succube di questo essere, di questo orco malvagio, succube. Ecco, senti, cosa vuoi fare adesso? Cioè, al di là della... Io adesso ho dato incarico al mio avvocato, sì. Di ovviamente querelare o denunciare, non so come si dice, Facebook, Twitter, Instagram, Second Life, tutti questi network che fanno sì che dei bambini, dei ragazzini si iscrivono senza controlli, che vengono poi attirati nella rete di queste orche. Io voglio far causa a questi personaggi qua. Però questo è in carcere? Questo è in carcere. Adesso c'è stata la convalida del fermo e l'accusa è violenza sessuale su minori. Cosa raccontava questo signore, questo pastore americano a tua figlia? Lui voleva una figlia da lei perché il signore ha detto, la parola del signore, il signore le ha detto che avrebbe dovuto avere un figlio e che così avendo un figlio i genitori capivano la loro storia. Senti, ma lei a un certo punto è uscita da quella casa dopo la violenza e cosa ha fatto? Si è decisa a parlare con chi? Sì, si è decisa a parlare con una professoressa di scuola, una che si confida. Che hanno trovato nella sua camera? Avranno fatto delle indagini, no? No, quello l'ho trovato io. Che hai trovato? Ho trovato un vestito bianco messo al rovescio, una coroncina fiori da mettere in testa e un barattolo di... Cioè, non ho capito, gli abiti di un matrimonio? Sembra di sì. Addirittura, è come se li hai comprati, scusa? O gliela ha regalati l'orco? No, se li ha comprati lei. Tanto dai cinesi, 20 euro. Tu non ti sei mai accorto di nulla? Tu, mai? No, anche perché io la vedo ogni 15 giorni, capito? Certo. Allora, nel senso, nel nostro, io sono praticamente il papà amico, sarebbe stato meglio, ecco, il mio rimpianto più grosso è questo. Qual è? Io Qual è lo rimpianto? Porterò fino alla morte sta roba. Qual è il rimpianto? Di non essermi accorto di niente. Cioè, vuol dire che, tra virgolette, ho fallito come padre. Speriamo non esca questo qua. No, questo qua non deve essere, no, se esce... Lo vai a rincorrere. Sicuramente. Simone, grazie. Grazie a te. Ciao. Comunque, ragazzi, da questa da 11 a 13 anni è stata praticamente libera di fare una vita parallela senza nessun controllo. Va bene. Però Ettore da Isernia. Torniamo alla storia dei gatti. Ettore. Ettore. Che c'è, Ettore? Dimmi. No, vorrei esprimere il mio concetto, quello che volevo dire, senza che l'amico tuo, il comunista, lì intervenga. Ma che c'entra adesso il comunista, Ettore? No, vabbè, per precisare. Perché no, precisare un cazzo, aspetta un attimo. Ettore, però dammi il numero della vicina. Ce l'hai? Il numero della vicina. Ma i condomini stanno tutti dalla sua parte. Dammi il numero della vicina coi gatti. Ma che puntualizzare, che sei napoletano, dai. Non è professore, io sono professore di educazione fisica. Ragazzi, chiedete il numero a Ettore, chiedete il numero della vicina. Brucita. La zanzara. Allora, Ettore, dammi una mano a parlare con la tua vicina, dai, allora, forza. C'è il marito qua, c'è il signor Luigi, il marito della Diana. Allora, il problema è molto semplice. Ettore protesta perché questi sette gatti di proprietà della signora, non so come si chiama questa signora. Anna, marito, come si chiama? Luigi. Luigi, e qua vicino a me la signora non c'è. Ah, ho capito, ma chi è che però chi è che c'ha sti gatti? La signora o e la signora? Il marito si è reso di. Tra l'altro, il marito non vi conosce, nel senso che non segue la trasmissione. E passamelo, che meglio. Te frega, uguale. Sì. Passami Luigi, dai. Vuoi, parla lui, va. Sì, pronto? Luigi? Buonasera, con chi parlo? Con mi chiamo Interpol. Mi chiamo Cruciani, sono un agente dell'Interpol. Buonasera. Buonasera, è capitato benissimo. Mi dica, che succede? Ma è vero che i sette gatti, lei ha sette gatti innanzitutto? Innanzitutto ce li ha mia moglie. Beh, contro uguale. La mia volontà. Ah, contro la tua volontà. Contro ma la ci tua... mancherebbe altro. Beh, ci mancherebbe altro. Ma è vero che pisciano davanti al garage del signor Ettore? Ma è verissimo. Beh, scusa, però Luigi, adesso o ci state perculando, o ci state pigliando per il culo, oppure Ma vuole pigliare per il culo? Io non la conosco, e lei si rivolge così a me. Ma stiamo scherzando? No, scusami Luigi. Allora, mettiamo così, le cose in chiaro. Tua moglie, allora, capo di stato, tua moglie così. Anna, tua sì, moglie sì, signora. Sì, mi dica. Tua moglie Anna ha sette gatti, ok? Sì. Ecco, tu sei contrario. Ma non è che ha sette gatti dentro casa, dà da mangiare a dei gatti che stanno sotto casa. Benissimo. Non abbiamo sette gatti. D'accordo, ma il signor Ettore protesta perché questi gatti vanno a pisciare davanti al suo garage. Allora, Ettore ha ragione, perché è accaduta una cosa, cioè una di queste sette gatte ha partorito, si è rifugiata in un garage adiacente a quello del signor Ettore e ha fatto anche i suoi bisogni. Scusate se interrompo questo straordinario racconto. Sì, sì. Di che cosa stiamo parlando il venerdì alle 20.02? Ma voi mi telefonate! Allora, di che cosa stiamo parlando? Di un signore che lamenta che sette fottutissimi gatti... Io volevo allargare il discorso... Non con questo chi è Ettore? Chi è Ettore questo? Ettore. Io non lo volevo contestualizzare ai Ettore. Gatti. Io volevo dire che in Italia stiamo prendendo una brutta piega. Bruttissima, sì, una bruttissima piega. Quale sta legittimando sempre di più l'animale e si sta delegittimando. In questo caso sono sette gatti che pisciano davanti al tuo garage, amico mio. No? Vieni a pulire tu allora, Cruciani. Vieni a pulire. Vabbè, d'accordo, ma adesso cosa ma vuol dire? C'entra la politica, c'entra del legittimare. Ma costringa cosa? Questa signora. C'entra perché ogni giorno viene fatta propaganda animalista, vegana. Adesso in questo caso non mi sembra che il problema sia così grave, cioè... Ah sì, perché è un cane che si morde la coda, veganesimo, animalismo, comunismo, sì. Tutti uguali. No, tutti è comunismo che c'entra stessa... adesso, comunismo non c'entra niente. È così. Vabbè, così, Ettore, così. ciao. Fabio da Milano, vai, Fabio. Fabio? Niente, Giuseppe da Padova, dai, Giuseppe. Dai Giuseppe. Ciao Beppe, ciao. Dimmi. Ciao Davide, volevo salutare anche tutto Riccardo da Roma. Ma non ce ne frega niente, dai, forza, basta con questi saluti, dunque, non ce ne frega nulla, dai. Beh, dai. Lo so, comunque... Lo so, intanto detto... saluti. Che cazzo saluti? Se ti dico, se lo sai che non mi vale che si fanno i saluti, saluta. Vai Giuseppe, volevo, dai. Volevo ricollegarmi con quell'ascoltatore che diceva che tutte le ciccionate, le bruttonate vanno con gli islamici, è vero. Dai, ma che sono queste stupidaggini? Allora, dai, su. Allora, c'è cioè una più lavoro. È brutta e più c'è possibilità che aderisca all'Islam. Dai, sì, no, ho detto che hai i nordafricani, i tunisi, che non è detto che siano islamici in teoria. Esatto, che non è detto, però piacciono le ciccionazze. Ma cioè, dai, allora, su, ma che è sta roba? Dai, allora, Giuseppe, allora, dai. Io lavoro in un centro commerciale per una nota compagnia telefonica, quella arancione. Vabbè, okay? Allora. Bene, okay. Quella arancione, sai che è una compagnia tipicamente dell'etnico. Quindi di persone di tutti, insomma, di stranieri, perché costa poco. Bene. Quando entrano in negozio da me, sì. Se sono accompagnati da un'italiana, sì. È un cesso, sempre. Cioè, tu stai dicendo che gli immigrati, posto che questi siano islamici, eccetera, preferiscono le grasse italiane. Non sì, ho capito. Ma perché? Sì, perché ti spiego. Ma è semplice. Perché sì, di solito sì. Le ciccionate, quelle brutte, chi se le fila? Nessuno, non se le fila nessuno. E queste, siccome devono compensare la loro bruttezza magari con, che ne so, qualche prestazione... Vanno con gli extracomunitari. Perché sì, se non se le caga nessuno. Vabbè Giuseppe, mi sembra una teoria assurda. No, fidati, guarda che è tutto guarda, vero. Io sono uno... Guarda, allora, io te lo dico, sono figlio di un siriano. Che è venuto qua in Italia ancora, mio papà non c'è più, però sono anni che sono figlio di siriano, sono nato qua, eccetera. Quindi sono l'ultima persona su questo pianeta che potrebbe mai essere razzista. Dunque, o la tua teoria, ricapitola un po', perché io non l'ho capita bene. La teoria tua qual è? È molto semplice. Allora, se tu guardi le donne italiane che vanno con tunisini, marocchini, egiziani, sono tutte grasse e brutte. Sono tutte bruttissime. Tutte. Va bene. Giuseppe, ciao. Ciao. Fabio Milano, vediamo se lo recuperiamo, dai. Eccolo. Fabio, dimmi. Ciao, Cruciani. Complimenti per il programma. Vai, dai, dimmi, dimmi. Se forza. Sei bravo, la cosa terrorizzante è il tuo pubblico. Vabbè, dai, dimmi, dimmi il pubblico, sono gente che chiama, non è il pubblico. No, dai, forza, no, Fabio, dimmi. Tu sei un radical chic assolutamente insopportabile, manicheo. Ma quello che è veramente insopportabile è questo, sì. Quello che è insopportabile è il tuo pubblico, sì, che fa finta di essere trasgressivo, questi messaggini un po' sottovoce con sotto la musica rock, un po' heavy, ma sono patetici, pensano di essere trasgressivi, ma fighi. Chi? Ah, quelli che mandano i messaggi. Sì, patetici, scusami, insopportabili. È un pubblico che è veramente la feccia d'Italia. Ha ragione il tuo amico Parenzo. Vabbè, dopo questa analisi sociologica sul pubblico della Zanzara che ci ha fatto due coglioni così, andiamo avanti, forza. Questo è un aspetto. Il secondo aspetto è arrivato il sociologo delle trasmissioni radiofoniche, capito? Il grande studioso del pubblico radiofonico. Grazie. Non sai nulla, per cui andiamo avanti. Per fortuna che hai uno vicino a te che è minimamente. Non sai nulla, niente, zero. La gara tra te e Parenzo sarebbe impari. Parenzo è nettamente superiore a te. Può darsi, ma questo superiore in che cosa? Poi bisogna vedere. In altezza no. In altezza no. Può darsi un'altra cosa. Il punto in realismo, in realismo e in intelligenza. Bene, è arrivato anche il misuratore di intelligenza, oltre che il sociologo delle trasmissioni radio. Ma non attaccarlo così, è un ascoltatore. Affanculo, va. Incapacità di leggere la realtà. Lascialo argomentare. La cosa che trovo veramente più inquietante nel tuo ragionamento, la tua visione della realtà, è quello che tu predichi e dici sulla prostituzione. Sì, bravo, esatto. Sì, Parenzo ovviamente... No, ma hai ragione. Ha ragione di sentire. È una battaglia persa. Dai, forza, amico mio, forza. Andiamo avanti, veloce, su. Il punto è molto semplice, Cruciani. Sì. Tu hai una figlia, figli. Una figlia di 11 anni quasi, sì. Allora? Ok. Mettili 5 anni in più a questa figlia. Io ne ho una che ha 20, 19, una splendida ragazza, anzi ne ho due. Dunque? Prova a trasferire, se riesci. Sì. Idealmente, quello che tu dici, la tua concezione della vita, della prostituzione in particolare che hai su tua figlia. Ma non ho capito perché dovrei trasferire mia figlia, non lo capisco, Cruciani, francamente. Perché cambieresti immediatamente idea. Ma di che stai parlando? Ma che vuol dire? Non vuol dire niente questa cosa. A parte sulla prostituzione, la prostituzione riguardo a che cosa? Non ho capito, riguardo a che? Riguardo a che? Alla mia idea di che cosa? Di legalizzazione o la cosa che ho detto prima sul corpo della donna come un bancomat? Il corpo della donna come il bancomat. Quando è intervenuto l'altro giorno quel tizio che era il proprietario o gestore, non mi ricordo, di un bordelli, grande bordello, sì, di un grande bordello, sì, grandissimo. Un sacco di cagate. Che cosa ho detto, per esempio? Prova, lo sai perfettamente. Dimmene una. Ma sì, ma la concezione del corpo, che per cui questa gente, non è vero che sono sfruttate, poverte, ma tu sai la realtà di queste ragazze quale? Che vengono data dalla Tanzania, Cruciani, dalla Tanzania, Camerun. Bravo. E allora? Allora tu arrivi a dire a parte che non mi sembra che ci siano tanzaniani o camerunesi nei cosi, nei bordelli. No, allora, vieni in Viale sulle teste, vieni in Viale Zara a Milano. Ti porto io a fare un giro a vedere. Che c'entra Viale Zara? Stai parlando dell'Austria adesso, un'altra cosa. Se non sono da Tanzania, sono rumene, Cruciani. Sì. E comunque il punto è, sì, trasferisci quello che tu hai sostenuto e sostieni nelle tue puntate sulla persona, sì, su tua figlia. Che non c'entra niente, totalmente nulla. O sua mia figlia. Non significa nulla, zero questo che stai dicendo, zero. Zero. Io sono a favore della legalizzazione della prostituzione, penso che molte prostitute siano libere di fare quello che vogliono, quelle sfruttate ovviamente, punto, ci sono i reati e la polizia indaga. La sofferenza umana che c'è dietro queste persone, tu non hai idea. La sofferenza umana dietro le persone se ne occupano gli psicologi, se ne occupano i sociologi, se ne occupano altre cose. E la questione è molto realistica. Se ne deve occupare la gente comune, no, cioè amico mio, il mondo, la prostituzione è esistita, esiste ed esisterà sempre. Mettitelo bene in testa, ficcatelo bene nel cervello. Ma eliminare la prostituzione è come dire elimino l'acqua, il mare. D'accordo. E allora che cazzo dici? Il punto è un altro. Il punto è quello. Non c'è nessun altro punto. Il punto è che sei demoniaco e sei un insultatore della donna. E delle sofferenze, ma quando? Ma quale ragazze? Sofferenze? Ma che c'entra le sofferenze? Ma se uno soffre a fare la prostituta, va benissimo. Soffre a fare la prostituta perché non ha trovato un altro lavoro, perché vuole sfruttare il proprio corpo. Soffre perché è sfruttata. Ti sta quello è un altro discorso. Lo sfrutta. Parenzo, non è inutile. Parenzi, ma vieni via da quel Parenzi. Salve ragazzi, bravi. Bravo, cazzo. Marco, provincia di Frosinone, dai. Sì, ciao a tutti, volevo intervenire sulla questione molto dolorosa e vi ringrazio di averla mandata in onda, quella storia della bambina violentata. Sì. Mi ha colpito molto il fatto che il papà dica che era normale, la bambina non dava nessun segno di disagio Però lui non ha rapporti, praticamente, mi sembra di aver capito, sì, perché la vede, sì, ogni 15 giorni, non so come la frequenta e che tipo di papà è, che rapporto profondo. Ma lui stesso ha detto, lui stesso ha detto di essere, di sentirsi colpevole per questo, mi sembra molto chiaro. La mamma, da quello che ho capito, non ha granché rapporti con la figlia perché non la vede tutto il giorno e non so che tipo, allora, di rapporto profondo. No, voglio dire, è importante dare il messaggio di seguire i propri figli. No, nella, ma questo mica stiamo a Radio Maria, mica stiamo a Radio Maria qua. A proposito, Radio Maria, Maria da Milano. Marco, ho capito benissimo, messaggio di seguire i propri figli, ma che banalità. Dai, forza Maria, forza. 10 anni di poco fa. Dimmi. Volevo chiedere questo, al di là delle polemiche, la mamma, il papà, eccetera, ma tenendo conto dell'età della ragazza, come ha fatto a entrare in un albergo senza che nessuno... un appartamento preso in affitto. Ah, allora ho capito male. Un appartamento preso in affitto da questo pastore americano. Questa bambina gira da sola a quell'età lì di sera. Quello è un altro discorso che riguarda la gestione familiare. È quello di cui stiamo parlando, perché è una storia talmente incredibile. Un pastore americano insieme alla moglie. Ma veramente incredibile. Che viene a Milano e che alla fine violenta, anche se non in maniera completa, diciamo, come ci ha raccontato il padre. È già incredibile che il padre lo racconti, diciamo, no? Violenta una ragazzina di 13 anni che ha passato gli ultimi due praticamente in una vita parallela su Second Life. Vabbè, comunque fa senso, perché vabbè, Maria, ripeto, certo, fa niente, senso, non c'è dubbio. Ciao. Cruciani, lavati, zozzo. La Zanzara. Sono le 5:20 del mattino e sulla Napoleonica Codroipo, direzione Palmanova, contracco il perineo. Sono un sacerdote, sto andando in treno e contraggo il perineo. Contrae il perineo, rilascia il perineo. Contrae il perineo, rilascia il perineo. Crucia, hai rotto il cazzo con la Zanzara. Noi vogliamo sentire la pubblicità. La pubblicità e il traffico. La Zanzara. Ettore, è semplice, se vuoi che non ti pisciano più i gatti vicino al garage, mettici una bottiglia d'acqua piena d'acqua chiusa col tappo e vedrai che loro non ti pisciano più, va bene? Allora ragazzi, io direi di andare a Laura, provincia di Savona. Vai Laura. Ciao. Dimmi. Io volevo dire che io lavoravo con un ragazzo musulmano e quando l'ho rivisto dopo le vacanze ho provato a salutarlo, cercando di stringergli la mano, ma lui ha alzato le mani e mi ha detto no, non posso per la mia religione. Quindi non è vero che le persone islamiche danno la mano alle donne in alcuni momenti, altri no, perché hanno le sue cose, hanno di qua, sono impure. Alcuni lo fanno, altri no. Il suo collega, ad esempio, invece mi ha dato la mano. E quindi, secondo me, c'è semplicemente chi è più o meno occidentalizzato. Ovviamente sono persone che sono qua perché lavoravano con me. No, no, quindi, ma infatti dipende soprattutto da quello, no? Cioè chi è matto e chi non è matto, secondo me. Cioè, perché... ma io non ci trovo nulla di male, nessuno non vuole dare la mano, non dà la mano per religione. Ma non mi male, sembra no, un problema quello. Tra l'altro, due persone normali con le quali si parlava tranquillamente, si rideva e scherzava. Cioè, va bene, Laura, grazie. Davide Torino, vai, Davide. Ciao. Allora, quando io vedo Parenzo a quella trasmissione in onda, come si chiama? In onda, buono, sì, fuori onda. Lo stimo, perché lui è intelligente e acuto. Sì, il punto è che lì può parlare di Obama, di Hiroshima e tutto. Sì. Che cazzo ci fa alla Zanzara? È fuori luogo. Beh, anche qui parlo di Obama e questo di... è il... No, tu sì, lì parli di Obama mentre Cruciani risponde a quello dei gatti, chiama pure la vicina. Beh, questo è meraviglioso. Parliamo di Hiroshima. Meraviglioso. Ma che cazzo c'è? Meraviglioso. Questo è il punto. Già sembri Calimero. Cioè, però sei intelligente, fai quello che devi fare nelle sedie. Bellissimo. Alla Zanzara bellissimo. Non c'entri un cazzo. Pigliati Frassica. Che c'entra Frassica? Ma, dai, ma che c'entra Frassica? Dai, non hai capito niente. Pigliati invece... Sgarbi, pigliati qualcun altro. Vabbè, questo Davide, è il punto, ciao. Perché ciao. Sennò tutti continuano. Ciao. È venerdì, Parenzo, sei spaventato da quello che ti aspetta? Sei spaventato? No, perché penso che in una giornata come questa, in cui appunto dicevo c'è questa storica, storica visita, ma che cosa ce ne frega a noi della storica visita? Lucio Caracciolo di Limes ci può spiegare esattamente. Ma dai, no, il perineo di Obama. Vediamo il perineo di Obama, allora. Questo potrebbe essere una chiave. Allora, c'è un sito, un profilo Twitter che si chiama Tutto sul Sesso, che è abbastanza incredibile. Sì. Ogni tanto delle cose le verifico e sono vere, altre volte boh, non so da dove vengono. Per esempio, 4 donne su 10 preferiscono la masturbazione al sesso. Tutto va sul sesso, esatto. Aspetta. Sì, sta da vedere, figurati. Allora, le persone tutto sul che... calcio, tutto sulla musica. Allora, le persone tutto sul che cane, fanno spesso sesso. Sul cane c'è anche. Sì, le persone che fanno spesso sesso hanno tutto un buon senso. Controllo della vescica, e questo è abbastanza noto, ecco. Diciamo, no? Allora. Aspetta, aspetta un attimo. Il 70% degli uomini preferisce non fare sesso con la propria ragazza quando ha le mestruazioni. Questo mi sembra non ci voleva tutto sul sesso per spiegarcelo, eh. Le persone che ti trovano divertente sono quelle più attratte sessualmente da te. Beh, questo è interessante. Ma sì, ma questa è una banalità. 2 preservativi sì. Su 100 si rompono. Beh, questo è pericoloso, eh. Questo è pericoloso. Ecco, questo il è interessante. Giappone, il Giappone ha organizzato la più grande orgia mai realizzata prima con 500 partecipanti. Vedi che si è svolto il G7 lì in questi giorni. Sì. Questa notizia non l'ho trovata sul Sole 24 il 94, ore. Il 94% degli uomini mente sì. Sulle dimensioni del suo pene. Ecco, questo pure, è il caso di Mercù, ad esempio. Esatto. Questo è vero però, ragazzi. Sì, beh, è il vero. Caso di Mercù è emblematico. Ma perché poveraccio gli devi dire che c'ha un pene piccolo? Scusa. Il 94% degli uomini. Ma mente, dai, mente, su. Mente, allora, mente capito, comunque. Mente, questo è sicuro. Gli vogliamo professor bene Bossi, come sta? Ciao ragazzi, bentrovati. Ciao Eccolo. Dottori, di cosa Grande. Parliamo stasera? Ma è vero che 90... no, un'altra cosa all'atere, diciamo. È vero che il 94% degli uomini mente sulla dimensione del pene, secondo lei? Beh, mi sembra un po' tantino, però di fatto è vero che la nostra sessualità maschile è posizionata a 30 centimetri sotto l'ombelico, sì, lì vicino al perineo dove dicevate voi, sì. E invece dovrebbe essere posizionata a 60 centimetri sopra, e cioè nella cioè? Mente, ovviamente. Ah, ho capito, cioè. mi spieghi un po' questo gioco di cifre, diciamo. Cioè, nella nostra mente, allora, la nostra ambizione dovrebbe essere posizionato dove? A 60 centimetri sopra l'ombelico, ragazzi. Ah, ho capito, beh, ma no, ma è 60 centimetri sopra l'ombelico, siamo in presenza di mostruosità, però, professore. O no? No, beh, c'è qualcuno che ha una testa di e quindi potrebbe anche essere. Sì. Ma scusate, il tema di oggi qual è? No, sì. No, però ero interessato a questa cosa qui. Ma se adesso... è vero o no che c'è una che si mente addirittura a tutti questi uomini. Il tema di oggi mi sembra che però sia le persone asessuate, il mondo degli asessuati. Ah, vero? Ottimo, ottimo, questo è importante. O sbaglio, professore? Esistono molti asessuati secondo lei? Allora, scusate, ma una precisazione terminologica. Sì. Asessuato e asessuali è la stessa cosa. No, non è la stessa non cosa. È la stessa cosa, perché asessuato è colui o colei sì. Che non ha gli attributi genitali. Ecco. L'asessuale, la sessualità è una forma di espressione della nostra sessualità. Quindi io ho gli attributi, tu hai gli attributi, ma ciò non di meno sì. Non li esprimiamo, desideriamo non esprimerli, ecco. Per scelta, per vocazione, eccetera. E questa dunque, cosa è sempre più diffusa, professore? Asessualità sì. 1% degli italiani. Vabbè, 600.000 allora. Persone ci sono tra di noi sì. Che non, pur essendo sessuati ovviamente sì. Non hanno bisogno, volontà, stimoli. Tendenza, stimoli a manifestare la propria sessualità, certo. Questo è importante. Cioè ci sono 600.000 persone sostanzialmente che non fanno sesso, non trombano, eccetera, zero, zero. Certo. Uno può dirmi per motivi religiosi, uno può dirmi per ascetismo, sì anche, ma non solo. Persone perfettamente integrate nella società, sì. Che lavorano con voi, che sono le 24 ore, che invece non copulano, non desiderano, non amano. Beh, qui secondo me ce ne sono anche abbastanza, diciamo, persone che sappiamo, non copulano, persone che non e copulano. Allora, proviamo a giocare. Parenzo, quanti sono i colori dell'arcobaleno? I colori dell'arco, sa che non, dovrebbero essere pochi sono sostanzialmente, perché quelli sono 5, 6. Dicono sette, ah, ecco. Coloro che se ne intendono. E allora, Parenzo, pensiamo che anche la sessualità umana sì? Sia qualcosa di 7 colori. Proviamo a vederli quei 7 colori. l'eterosessuale, primo colore, sì, l'omosessuale, secondo colore, sì, il bisessuale, terzo colore, sì, il transessuale, il transgender, sì, l'ermafrodito, che ha tutti e due gli attributi, sì, l'asessuale. Sì. Se li avete contati sono 7, esattamente come i colori dell'arcobaleno. E che vuol dire? Allora, scusatemi una cosa, Cruciani, quando lei va in comune e le propongono di compilare un questionario qualsiasi, sì, sì, che sì, so, nome, cognome, nato, sesto, quante caselle ci sono vicino? 2 di solito 2. MF. Ma perché 2? Ma perché 2? Se i colori dell'arcobaleno sono 7 e se abbiamo citato 7 almeno... Beh, professore, sì, diciamo che il professore e il suo collega Mario Adinolfi si incazzerebbe molto per questa cosa, perché sostiene che si tratta di MDF, tutto il resto non si deve considerare. Cioè non si... È il parere di Adinolfi, che è rispettabilissimo come tutti i pareri, però è una cosa un po' tragica, perché colui che afferma questo è rimasto all'etimologia di sesto. Però secondo lei bisogna affiancare allora MF 7 altre 5 caselle? Io direi altro. Bellissimo. Cioè uno grande fa MF messaggio. E poi altro che lascio aperto le possibilità, perché l'essere umano, credetemi, sì, è l'unico animale, è l'unico mammifero che ha una sessualità veramente così strana. Beh, gli altri no. Gli altri sono molto più, diciamo... E di una chiarezza, professore, guarda, veramente... Però io dico, professor Bossi, ma il vero motivo per cui non si copula, anche qui, come lei ha detto, ha citato l'esempio di questo building, per esempio... Perché la gente non copula? Cioè, questo appunto... Cioè, perché la gente alla fine non tromba? Perché ci sono così tante persone che non trombano? Come mai? Allora, dobbiamo fare una cosa molto seria, perché qui ci sta ascoltando, magari si può trovare in questa condizione. Due grandi categorie, immaginate di fare proprio una B. Da una parte coloro che non lo fanno per motivi medici. Quello è chiaro, importante, uno che ha un problema ipofisario, un tumore ipofisario. D'accordo, però è un dramma. Però non parliamo di questi qua, parliamo di quell'altra categoria, non quelli che hanno problemi medici, si capisce. Gli altri? Gli altri, ecco, a questo punto si dice che sia proprio una forma di espressione della sessualità, forse, e qui però metto tra virgolette, legata a una sorta di masochismo. In altri termini, io voglio farmi un po' del male, sì, e mi tolgo una delle due condizioni del piacere che Madre Natura mi ha dato, perché Madre Natura ci ha dato l'alimentazione, il piacere di alimentarci, cioè il piacere del sesso. Dunque io nel momento in cui faccio questo... In realtà seguo un principio che è vecchio come il mondo e si chiama il principio di Abele. Ma prima di andare ad Abele, io ho una domanda per Parenzo. Eccoci. Qual è la domanda per Parenzo? Ecco, professore, siamo qua. Eccoci. Secondo te, Parenzo, l'etimologia di sesso da dove deriva? Non lo sa. Oddio, sesso, non lo sa. No, non lo sa. Da dove deriva? Da dove deriva? Dal greco? No, credo, però. Da dove deriva il greco? Facciamo del latino, ecco. Da sexus. Sexus, da cui deriva secare. Secare cosa vuol dire? Tagliare, dividere. È un concetto veramente un po' arcaico. Della serie, io ti divido di qua i maschi e di là le femmine. Questa è un'idea molto che fa molto pratica. Molto, e allora? E invece no. Tutto sbagliato, non abbiamo capito. Tagliamo a metà. Non si può tagliare a metà. Tagliamo almeno in 6-7 pezzi. Sesso è impulso. Però, professore, io voglio una domanda finale per lei, che è una cosa che ho qua in testa, eccetera. Ho letto nei giorni scorsi che c'è una nuova pratica, forse lei ne sa qualcosa, molto diffusa, pare. Che si chiama pegging. Cioè, praticamente la donna che indossa una cintura fallica e sodomizza l'uomo. Ora, secondo lei, che ha dimestichezza, perché le vengono a raccontare un sacco di cose, è vero che è così diffusa questa cosa qui, che Parenzo pensa che sia una cosa orribile, terrificante? Sodomizza l'uomo. Cari signori miei, un po' di cultura. Andiamo a Firenze, andiamo nel Rinascimento, c'erano i vetrai. Sì. I vetrai che cosa facevano? Confezionavano dei falli, sì, anche che erano evidentemente ad uso per quello che tu dici, ma aveva una caratteristica, che si poteva versare in questo fallo un liquido caldo. Pure. Dicevano che versavano il latte, talvolta anche altre sostanze. Si dice che venisse usato molto nei conventi. Chiedo scusa, ma questo è un dato storico. È un dato storico, allora, assolutamente. A questo punto, la pratica che tu mi hai citato è vecchia come il mondo. Assolutamente. Assolutamente. Che addirittura nelle Firenze del Rinascimento. Beh, sua ragazzi, bene non mi lasciate dire nulla, sua bene non mi lasciate dire nulla. Cioè, no, nella città di Nardella, praticamente. Vabbè, comunque, no, ma è importante questa cosa qui. Cioè, lui sta dicendo: sì, è inutile queste carità, ricerche, no, qui, certo, che fanno, sì, sulle pratiche sessuali in cui, sì, la donna indossa una cintura fallica per sodomizzare l'uomo. Di che vi stupite? Esiste fin dai tempi. È tutto normale, fin dai, certo, tempi dei falli dei vetrai con liquido dentro, ragazzi. Sì, i falli dei vetrai, evidente, con liquido dentro. Tutto normale. Fermi tutti, professore, dobbiamo chiudere. Beh, cari amici miei della Zanzara, siamo al top, eh? Siamo veramente al top. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aruba Soluzioni Cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. La Zanzara. Pronto? Senatore? Sì. Sono Cruciani, come stai? Grande Dan. Bene, grazie, come stai? Ma lo sai che io mi viene voglia di appoggiarti? Comandante Dan. Mi viene voglia di darti ragione. No, no, sì, sì, sì, sì, sì. Mi viene voglia di darmi? Di darti ragione. No, ricordiamo cosa ha detto. No, nei confronti di questa specie di plotone di esecuzione. Che plotone? C'è? Plotone? Ha detto che Saviano non dovrebbe avere la scorta. No, su. Sono tutti alla ricerca di una medaglia di cartone. Sono tutti professionisti dell'antica morra a chiacchiere. Allora, io dico una cosa. Si aspetta, aspetta, aspetta. Minacce della criminalità. Aspetta, comunque, aspetta un attimo. Avanti. No, io mi viene voglia di dargli ragione. Perché, spieghiamo, aspetta, spieghiamo che cosa è successo. A un giorno da pecora, qualche giorno fa, il senatore Danna ha detto, e poi l'ha riconfermato, perché il senatore Danna non è come quelli che dicono una cosa e poi il giorno dopo dicono no, ma io non l'ho detto, volevo dire questo, volevo dire quest'altro. Ha detto che Saviano, secondo lui, non merita la scorta, non dovrebbe avere la scorta. No, non ho detto neanche questo. E che hai detto allora? Ho detto che c'è una recente sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha accertato l'infondatezza delle minacce che erano alla base dell'assegnazione della scorta alla senatrice Capacchione e allo scrittore Saviano. Sì. Se queste minacce, perché i boss sono stati prosciolti con formula pie, sì, pare che queste minacce l'avesse fatto un avvocato che faceva millantato credito, che si è preso un anno di carcere. Però, senatore, tu hai detto anche che a Saviano dovrebbe essere tolta la scorta. No, come no? Se quelle minacce erano il presupposto per la scorta e queste minacce per fatto processuale si sono rivelate false, questa scorta non va più assegnata. Vabbè, tu hai detto che sostanzialmente io la voglio togliere perché. Vabbè, adesso stai a fare un passo indietro, però. Io interrogherò il ministro Alfano perché ci deve spiegare quali altre gravi minacce sussistono per tenere 8 carabinieri impegnati e 3 macchine, di cui 2 blindate, che hanno un costo di 2-3 milioni di euro all'anno. E tu dici quando sostanzialmente noi abbiamo carabinieri che non possono mettere la benzina. Vabbè, ma che c'entra? Auto, abbiamo commissariati di polizia che non hanno internet. Ma Dannino abbiamo mio, abbiamo tanta gente che la lotta alla camorra la aspetta, fa veramente. Sì. Perché Saviano non la fa. 1.200 euro al mese rischia. Ma la Dannino e Saviano mio, non la fa invece. È un'ovvietà quello che io ho detto. Però scusami Danna, il problema è che poi nel tuo partito sono fatta tutti sotto, perché il PD è insorto. Ma guarda, Cruciani, io sono un poco come te, non soffro di solitudine. Per cui ti sta bene pure, no, stare, però, da sola e te ne fotti di quello che dici. Ognuno fa come crede. Però tu non stai zitto. Ma non è Danna che dice. Ma ragazzi, scusatemi. Dei magistrati, ma delle forze dell'ordine. Perché poi, sai, chi compra Danna un appartamento, aspetta, fammi a Manhattan, sì, panoramico, e da Manhattan poi rivolge pensosi pensieri, sì, sulle sorti del bene in Italia. Tu dici che con i soldi dell'antica morra Saviano si è comprato un appartamento a Manhattan, dici? Lo dicono, io non lo so, credo. Beh, che lo stai dicendo abbia tu. Comprato giustamente perché. Beh, tu stai dicendo che uno che parla dall'appartamento di Manhattan è andato a rubarli. No, amico, ho detto che era la battaglia antimafia di Saviano ha comportato attraverso i proventi, le royalty e quello che sono, un legittimo guadagno milionario. Tu dici che lui fa l'antimafia, quindi, l'antimafia i carabinieri, i poliziotti che a 1300-1400 euro al mese si fanno un mazzo così e rischiano la vita. Io per me gli eroi, le vere icone dell'anticamorra sono i poliziotti, sono i magistrati, i carabinieri e i poliziotti, non chi fa l'antimafia. Tu dici dire questo, sì, no? Ma secondo me lo devi dire, lo puoi dire, e non devi essere messo ma non esaltarti così, basta cazzata, tutti questi piccoli ipocriti che si sparano addosso. L'altro ieri in Senato hanno fatto un'ora e mezza di discussione, il contumace ovviamente, non potendo io rispondere, con un paese che in braga di tele, noi ci mettiamo un'ora e mezza a discutere sulle dichiarazioni del senatore Danna. Ma non siamo alla follia in questo momento. Scusa, senatore, però no, una cosa, no, ma guarda, no, il senatore Danna, a me piace, no, perché è uno che dice pare bene, ma questo non c'entra niente. Però, non è lui aspetta, a decidere se uno ha bisogno della scorta o no, vecchio mio, sempre, dai. Non fare sempre la parte, una volta ma quale parte? Ma perché io sono serissimo, ti voglio anche bene, ti abbraccio. Ma minaccia che è venuta alla camorra, alle organizzazioni malavitose, dal libro scritto da Saviano. Ma beh, non lo sei tu a decidere. Ma guarda che incredibile. Agli altri solesti cercatori di medaglie di cartone, qual è la concreta minaccia che ne è venuta? A parte il pericolo dell'emulazione, va bene? Ma che dice? Ma non lo decidi tu? Ma lo decidono le indagini, il prefetto, il ministro degli interni? Ma l'immaginetto. Però scusami, chiunque dica che il re è nudo diventi un barabutto. Io sono una persona per bene, più di te e più di Saviano. Però è chiaro, Parenzo? Sei più per bene di Saviano. Però io ma anche di Parenzo. Beh, di Parenzo. Ma questo va bene, ma questo è battutine, perciò gli ho detto a quello di un giorno da pecora che era uno stronzo. Perché su certe cose non si può scherzare, non potete fare gli eroi alle volte. Vabbè, ma quello parlava delle candidature discusse nelle file di Ala. Ma una perché è falsa, abbiamo querelato la Repubblica. La seconda è di un ragazzo che ha rotto con il padre, che si è fatto 17 anni di galera, ha pagato il fondo e da 10 anni è diventato una persona che non si dice. Se n'è andato a fare lo spazzino a Milano, assisteva i clochard, poi si è sposato e è andato 10 anni ad Ascoli di Ceno. C'è uno che si è fatto un mazzo tanto. Sì, e vi danno, dei camorristi. E vi danno dei camorristi. E noi che cosa dovremmo fare? Dovremmo dire a questo ragazzo che fa assistenza ai figli dei carcerati. No, torna da dove vieni. Però scusami, continua a fare il camorrista pure tu. Vince. Poi ci rendiamo la bocca della il fatto che la pena non è afflittiva. Però Vince, io Vince, aspetta, fammi rendiamo la bocca del. Va bene, ho capito. Una fermati un secondo, Parenzo. Delle grimpie della camorra. Va bene, Parenzo vuole dire. Fermati. Fermati, Vince. Parenzo vuole dire una cosa. Come lo fa il giorno? Parenzo vuole. Scusa, Vince. Parenzo vuole dire una cosa. Tu non sei tu che decidi se Saviano se ha diritto alla scorta o no. Come fai a sapere che non serviva la scorta dopo? Io ho chiesto perché c'è una sentenza, Parenzo. A chi l'hai chiesto? A chi hai chiesto, Dannino mio? Invece di fare la mezza sega che fa il contrattare a Cruciani, ma quale mezza intera, totale? Ma non è questo il punto. Ci sono le intercettazioni e le minacce a Saviano. C'è un ministro che è il Ministero degli Interni. Ci sono i magistrati. Ci sono le forze dell'ordine. Ma non è facile avere la scorta nel nostro paese. Ma guarda che incredibile! Del mezzo radiofonico e televisivo. Pensi di essere più intelligente degli altri e non conosci la sentenza. Ti sto dando un come fatto, ti sto dando un fatto, non una suggestione. Ma quale fatto? Vatti ci a leggere sono la sentenza. Prefettura lo decide, il ministro degli interni. Ma guarda che è incredibile. Sentenza. Ma non quale sentenza di sto cazzo? Ma scusami, ma di che parli? Niente, Danna, niente. Danna sta dicendo una cosa, secondo le informazioni che ha. Neanche la sentenza non si può, ma non c'è Danna, se non sta leggere le carte. Danna, professionista, dannata sei tu. Danna sta dicendo che secondo le carte che lui Danna ha consultato, un dannato, non dannato. Le carte, il tribunale. Vabbè, quello che è, le carte, dicevo. Ma ci saranno altre ragioni per cui questo l'ha storto o no? Che quando quel tribunale trasmetterà evidentemente alla prefettura o al ministero degli interni. È pubblicata la sentenza, ma che chi? E allora perché? E chi la decide? La testa di limone, chi lo decide la scorta? Testa di limone, chi la decide la scorta? Scusa. Non capisce niente. Scusami, allora chi un attimo, fermi, chi decide la scorta? Calmatevi. Chi decide la scorta? Danno non ha detto assolutamente. Ma non la decide. Ma non la decide Saviano, la sua scorta. Questo non capisci. Niente, è finito. È finito. Ecco, ma perché secondo te la scorta ce l'ha ancora? Non questo la decide spiegamelo, Saviano, secondo te. La scorta. Io ho letto una sentenza che è stata pubblicata dal Fatto Quotidiano. Ma quale sentenza? Vabbè, ho capito. Ma non allora, se l'ha data Saviano, solo la scorta, Saviano. È questo che quello Saviano non ha detto. Va bene, ragazzi, fermatevi. Senatore, si fermi un attimo. È una macchina che la porta davanti e indietro, da Caserta a Roma e da Roma a Caserta. E allora? A spese dei contribuenti. Se non ci sono altre minacce, incredibile. Torta che cosa serve? E che ne so, ma questo chi ma è? Ma non lo decide la Capacchione. Non se l'è assegnata da sola la scorta. Sai come si fa, Cruciani? Ma sai come si fa la scorta o no? Facendo la persona onesta, come politico, non ricevendo imprenditori o persone che non conosci. Però scusami. Non facendo i comunicati stampa. O come fa il mezzo giornalista che c'hai lì? Vabbè, dai, adesso me lascia dietro un microfono. Cercando senatore, ti voglio chiedere una cosa. Saviano, Saviano ha detto che il Partito Democratico si deve vergognare di Verdini, cioè di voi. In pratica, si deve vergognare di voi. Come vuoi rispondere? Io mi chiamo Danna e non mi chiamo Verdini. E vabbè, di Verdini intende di Verdini. Per quello che mi riguarda, le parole di Saviano valgono quanto il tuo di Briscola. Quando si gioca a briscola, Saviano può dire quello che vuole, non ha né titoli culturali, ma che dice? Titolo per essere il metro del lavorale di chi sia, se non per il fatto che sia stato portato al di là dei suoi meriti e delle sue qualità a rappresentare un'icona, cosa che io non discuto, ma per me non è un'icona. Cioè le cose che dice sono banali o no, secondo te? Uno che dice, scusa la Cruciani, uno che dice la RAI non doveva permettere a Danna di dire quelle cose. Sì, è vero, questo ha detto una cazzata. Ma tu ti rendi conto? Quello ha detto una cazzata. Qua siamo all'io ipertrofico, qua siamo alla megalomania assoluta. Quello è vero. La RAI non avrebbe dovuto ospitare me perché non riconosco Saviano. Sì, una follia, quella quale, è una follia. Dopo la sentenza di Santa Maria Capovetere ha attaccato i magistrati. Ancora questa sentenza. Senatore, aspetta, Vincenzo, una cosa sola. Il difensore. Sì, ma ho letto una cosa sola, ma l'hai già detto, una cosa sola, ma oggi secondo te c'è un camorrista che vuole ammazzare Saviano? Secondo te esiste o no? Secondo me no, se ne frega un'altra mente, perché i camorristi non sono quelli della serie. L'ha detto lui, ha fatto le indagini lui, guardano Danna. Al vantaggio, le 00 Danna. Al guadagno fraudolento. Tenente Colombo. Può dire e scrivere quello che vuole, ma non dà fastidio a nessuno. Sì. E un'altra cosa, la serie Gomorra la stai vedendo o no? No. Ti fa schifo? Ma non mi piace perché là è solo business, là non si raccontano più fatti. Scusa, ti posso fare una domanda, Cruciani? Ma Mario Puzo, quando ha scritto Il Padrino, camminava con la scorta negli Stati Uniti. Vabbè, erano altri tempi, che quando c'entra? Quando ha rappresentato un mondo, e questo è il merito di Saviano, ma la rappresentazione di fatto non costituisce di per se stesso o necessariamente un pericolo. Va bene, ciao. Dire questa cosa. No, ma tu, ma io infatti la cosa può Giordano Bruno bruciato. Ma infatti su questo hai ragione, hai tutto il diritto di dirlo e nessuno si deve permettere che alla RAI o altrove non si possono dire queste cose. Arrivederci a lunedì, ciao. Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia.